si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Si può fare 8.30 fino alle 11, staremo insieme anche con il numero verde per intervenire in diretta tra poco, più avanti, dopo il giornale radio delle 9. Spero che stiate bene, starete ancora meglio dopo aver sentito la prima buona notizia di oggi. And now, the good news! Allora, è italiano il primo stabilimento nel mondo biocarburante da biomasse non alimentari. È stato inaugurato, aperto anche ai giornalisti, alla stampa, alle autorità qualche giorno fa, l'altra settimana, a Crescentino, in provincia di Vercelli. Produrrà carburante utilizzando sostanze naturali non alimentari, una scommessa della Beta Renewables, che aprirà in Italia altri centri di ricerca e esporterà le nuove tecnologie nel mondo. Occuperà fino a 300 persone, produrrà 75 milioni di litri all'anno di bioetanolo di seconda generazione destinata al mercato europeo. Lo stabilimento è totalmente autosufficiente per quanto riguarda i consumi energetici, non produce acque reflui derivanti dalla produzione industriale perché l'acqua viene riciclata al 100%, dunque è italiano lo stabilimento più super tecnologico al mondo per produrre biocarburante dalle biomasse. Questa, ditemi voi, se non è una buona notizia. Oh, ma naturalmente non sforzatevi di trovare queste cose qua sui giornali, perché è inutile, no? E bisogna parlare d'altro. Per esempio di cosa? Prima pagina del Corriere della Sera. Berlusconi, un nuovo colpo, interdizione di 2 anni, accanimento, io vado avanti. Le notizie, insomma, le abbiamo lette e abbiamo sentite anche dal giornale radio. La Corte d'Appello di Milano ha ricalcolato in 2 anni l'interdizione ai pubblici uffici per Berlusconi dopo che la condanna definitiva a 4 anni per frode fiscale. Il Cavaliere dice accanimento, io vado avanti. Il PDL Unito lo difende. Sui giornali si parla molto anche della manifestazione, delle manifestazioni forse, dei vari cortei che ci sono stati ieri a Roma. Scontri, paura, disagi, la protesta blocca Roma, anche se insomma il bilancio che ne fanno le forze dell'ordine e la polizia non è così drammatico. Le foto sono sempre di lacrimogeni e di scontri con la polizia, però di scontri non ce ne sono stati moltissimi, forse ci sono alcuni agenti feriti, ma credo nessuno in modo grave. Pomeriggio di tensione a Roma, scrive il Corriere, la protesta blocca la città, migliaia in piazza, non solo per casa e reddito, no TAV, centri sociali, migranti, rifugiati politici, ma anche antagonisti, giovani teppisti mascherati con il volto di V per vendetta. Questo sì, un po' incomprensibile, ma succede ormai a quasi tutte le manifestazioni, queste diciamo più estreme, in queste più estreme capita ancora più spesso. C'è spazio anche sulla prima pagina del Corriere per il classico commento della domenica di Aldo Grasso, che questa volta se la prende, interessante leggerlo, con Pier Giorgio Di Freddi, il matematico, pensatore, illuminista, insomma punto di riferimento anche della sinistra laica italiana, che questa volta avrebbe un po' esagerato. Dice Aldo Grasso nel suo blog, rispondendo a un lettore sull'esistenza delle camere a gas, è andato giù pesante nella settimana in cui si è parlato molto di Pripke. E dice Grasso, citando Di Freddi, non entro nello specifico delle camere a gas perché di esse so appunto soltanto ciò che mi è stato fornito dal Ministero della Propaganda alleato nel dopoguerra, e non avendo mai fatto ricerche, non essendo uno storico, non posso fare altro che uniformarmi all'opinione comune, ma almeno sono cosciente del fatto che di opinione si tratti e che le cose possono stare molto diversamente da come mi è stato insegnato. Prosegue Grasso, siccome Di Freddi non ha fatto ricerche personali, è possibile che qualcuno abbia mentito, magari Primo Levi, magari i sopravvissuti ai campi di sterminio, magari le testimonianze e gli studi che esistono in proposito. Se non è negazionismo questo, poco ci manca. Cioè la sostanza di questo articolo è come si può essere negazionisti sull'olocausto, sulle stragi commesse dai nazisti nei confronti degli ebrei, anche incredibilmente da sinistra. Lasciamo il Corriere, andiamo su Repubblica. Berlusconi fuori dalla politica, condanna media 7-2 anni di interdizioni, Alfano che però ribadisce resta il leader. E poi ci sono, diciamo, i retroscene, i commenti. Silvio rassegnato dice ora c'è solo la crisi, Per nulla sorpreso dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, Silvio Berlusconi guarda già alla battaglia finale, quella di Palazzo Madama, sempre più determinato a non arrendersi, pronto a trascinare a picco il governo. L'ultima arma, scrive Repubblica, il voto segreto. Sempre dal giornale di Ezio Mauro, andiamo a leggere una piccola intervista all'avvocato di Francesca Pascale, che ha annunciato, almeno ieri c'era scritto così sui giornali, che vuole fare querela alla Bonev, l'attrice produttrice di cinema intervistata da Santoro giovedì sera, che ha detto che la Pascale non è la vera fidanzata di Berlusconi, che è lesbica e che è una grande arrivista, sta lì solo per tenere in piedi un gioco di carta. Annunciata una querela a 10 milioni, però Pascale diffamata dalla Bonev, 10 milioni non sono troppi, ma Paola Rubini, l'avvocato della fidanzata del Cavaliere, dice: decideremo su un'azione penale, stiamo valutando se procedere con un'azione penale o con un'azione civile, non abbiamo ancora deciso e qualunque anticipazione sarebbe al momento prematura. La cifra di 10 milioni di euro è stata indicata dalla nostra cliente. Cioè, per ora della querela non c'è traccia, non è ancora partita, ma forse ci vogliono dei tempi tecnici. Ancora su questa vicenda qua, il Fatto Quotidiano scrive: interdetto dal tribunale e ostaggio della Pascale. Si insiste su questa vicenda, nuove voci su Palazzo Grazioli e sul potere della fidanzata. Decide tutto lei, non solo sui fagiolini, ma su amici e nemici. Poi all'interno la lista nera di Francesca, questi qui non entrano, cioè c'è una lista di ministri, esponenti del PDL che Francesca Pascale, che adesso chiamerebbero Evita, come Evita Peron, cioè avrebbe un ruolo di primo piano nella vita non solo personale di Berlusconi ma anche politica, gente che non può più entrare a Palazzo Grazioli: Denis Verdini, la Santanchè, Bondi, Capezzone, un po' tutti i falchi, la Brambilla, la Carfagna, la Gelmini. Invece nella cerchia stretta della Pascale ci sono le tre colombe: Iole Santelli, Nunzia De Girolamo e Barbara Saltamartini. Vabbè, ma finiamola qua. Andiamo sulla prima pagina del giornale, anche se l'argomento non è diverso. La cupola delle porcate, giustizia e tasse, scrive il giornale di Sallusti. Magistrati interdicono Berlusconi e brindano: abbiamo vinto la gara col Parlamento per farlo fuori. Il presidente di Confindustria però dice: la manovra del governo Letta è una porcheria, ma noi li vogliamo bene. Confalonieri dice a Silvio: in politica sei stato troppo buono. E poi Sallusti scrive: il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha definito ieri la manovra economica del governo una porcata, virgolettato, inutile per il paese, ma ha aggiunto: guai a fare cadere Letta. In realtà Squinzi non ha detto una porcata, vabbè, non importa, tanto per Sallusti evidentemente poco importa, anche se mette le virgolette, ha detto credo un pateracchio, che è un po' diverso, ma insomma. E poi c'è il commento sul presidente del CSM Vietti: un oscuro deputato dell'UDC diventato capo del CSM grazie all'appoggio di Berlusconi, che ieri ha fatto delle dichiarazioni, lo sapete, dice addirittura euforico: siamo arrivati i primi della politica a far fuori il Cavaliere, ha dichiarato ieri mettendosi al petto la medaglia di boia dell'anno. Festeggiano i magistrati e non nascondono la soddisfazione, perché, scrive Sallusti, nel paese comandano loro. Andiamo a ritrovare tracce della manifestazione di ieri a Roma sul Manifesto e sul Libero, due visioni diverse. Marci su Roma, scrive Libero: immigrati, no global, sindacalisti incappucciati, perdi tempo, assediano i ministeri, scontri con la polizia, vandalismi e arresti. Ieri è stata invasa Roma dalle solite squadracce di facinorosi, 91 anni dopo la marcia su Roma di Benito Mussolini e Camerati. Che cavolo c'entra la marcia su Roma di Mussolini con la manifestazione di ieri? Sì, con qualche elemento di violenza, forse anche di inconcludenza politica, se vogliamo, ma cosa c'entra la marcia su Roma? Cosa c'entrano i 91 anni? Non lo so. Il Manifesto scrive invisibili invece e parla di un fiume di ragazzi senza casa, movimenti, eccetera, migliaia, che però per le TV sono solo degli antagonisti. Siamo quasi in chiusura di questa breve lettura dei giornali di oggi. Allora, tenetevi forti, sulla prima pagina del Sole 24 Ore: ebbene sì, la Tasi vale più dell'IMU, si parte da 3,7 miliardi. Mi dispiace, sono le 8:45 del mattino di domenica, uno vorrebbe rilassarsi e dire: oh, ha ragione Letta, ci sono meno tasse l'anno prossimo. Invece no, il Sole 24 Ore purtroppo vi smentisce. Nella versione standard della Tasi, che dal prossimo anno finanzierà i servizi indivisibili, fra l'altro che vuol dire indivisibili, dei comuni, vale più dell'IMU sull'abitazione principale. Parola del governo che nella relazione tecnica definitiva al DDL di stabilità certifica appunto che il nuovo tributo porterà ai comuni 3,7 miliardi di euro, cioè più di quelli che erano derivati dall'IMU, che erano 3,3, quindi cifra alla mano, è stata tolta l'IMU, ma la nuova tassa stangherà di più, come mi indica giustamente Carmelo Lauricella in regia con un gesto chiarissimo. Allora ci fermiamo, facciamo la pausa per il traffico, poi torniamo a parlare del domenicale. Secondo me bisogna concretamente ridistribuire la ricchezza. Negli ultimi 30 anni si sono accumulati privilegi infiniti, soprattutto nel settore pubblico, si sono creati posti dirigenziali infiniti che sono serviti solamente ad aumentare i costi con conseguenti tempi lunghi per risolvere problematiche. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, restiamo però in edicola a parlare dei giornali di oggi, perché anche oggi domenica, di tutto quello che c'è in edicola, vi ricordiamo che una cosa soprattutto non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire, ed è il domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, la cultura alta, quella che tanto per intenderci ci aiuta a rispondere a delle domandine, così dove andiamo, cosa stiamo facendo, no? A parte gli scherzi, salutiamo anche oggi Armando Massarelli, che è curatore, direttore dell'inserto del domenicale del Sole 24 Ore. Armando, ben ritrovato, oggi in trasferta. Sì, sono in trasferta, buongiorno a tutti, sono in una trasferta adorata, diciamo, perché sono nei luoghi sono i protagonisti dell'avanzamento delle conoscenze, cioè sono al CERN di Ginevra, dove c'è un bellissimo convegno ad altissimo livello sull'innovazione, sulle infrastrutture e sulla governance che è necessaria per appunto generare nuove idee da cui nasce poi il nostro sviluppo e la nostra e anche insomma il nostro benessere sociale, ma soprattutto dove nascono le idee nuove che non possono che essere fondate su che cosa? Lo hanno ribadito quasi tutti coloro che erano qui a discutere, la libertà della ricerca, la libertà del pensiero, perché solo da queste può nascere qualche cosa di assolutamente nuovo. Gli esempi che si sono fatti, forse i più ovvi, sono Google, ma anche il grande esperimento dell'LHC che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs e che poi ha portato al Nobel recente della fisica. Veniamo al domenicale di oggi, no? Gli argomenti pesanti che toccate oggi. A me ha colpito questo inedito di Carlo Levi, perché, scusa se ti introduco, però tocca un argomento secondo me di attualità estrema, cioè la paura di massa. Pensiamo a quanti movimenti politici si sono mossi in questi anni e anche adesso su questo tema. Quindi, Armando, un inedito di Levi, importante. È un inedito di Carlo Levi del 1948, sono 6 pagine dattiloscritte completamente inedite che sono state conservate, sono ancora conservate ad Aliano in Lucania, dove Levi era stato al confino negli anni 30, dal 35 al 36. Sono pagine bellissime proprio sulla libertà. Questa riflessione di Carlo Levi peraltro serve anche a preannunciare molte delle cose che sono successe dopo nel 48, ed è un'analisi attentissima di come funzionano i meccanismi sociali, cioè di come la paura può essere contagiosa e generare appunto una sorta di immobilità del pensiero da parte di masse enormi di cittadini. Ma poi c'è anche un approfondimento filosofico importante, come se gli altri non fossero argomenti che si prestano anche a letture filosofiche, no? Però qua si parla, Armando Massarenti, di due filosofi, di due figure, cioè un filosofo che è Nietzsche, immenso sicuramente, figura importantissima, adesso ci spiegherai anche perché, ma soprattutto di un parallelismo con uno scrittore, Albert Camus, che è anche filosofo, dove poi c'è in ballo anche la collaborazione di Roberto Escobar, che è qui con noi, tra l'altro lo salutiamo, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Storica firma del domenicale del Sole 24 Ore. Armando, però, perché accostare questi due nomi, Camus e Nietzsche? Beh, questo adesso poi lo facciamo dire a Roberto Escobar, ma io dirò brevemente questo. Questa è la copertina della domenica di questa settimana. Nietzsche viene considerato spesso un cattivo maestro, qua invece io ho voluto proprio titolare il buon maestro Nietzsche, perché Nietzsche ha distrutto, è vero, molto di quello che era la tradizione dei valori anche considerati importanti nella nostra civiltà occidentale, ma aveva anche una smania di ricostruzione che fondo poi non gli è riuscita, ma che però ha dato l'altura a delle filosofie meno importanti, seppure molto molto, che sono diventate molto molto famose, come quella di Heidegger, come quella di Derrida, che in fondo tradivano un po' il suo messaggio originario. Invece Albert Camus, che dice in questo saggio, che noi di questo stralcio, di un saggio che noi pubblichiamo di Onfray, che è un filosofo francese molto, molto popolare in Francia, ma adesso anche in Italia, e acutamente fa vedere proprio le origini nietzschiane del pensiero di Albert Camus, un pensiero libertario. Infatti l'ordine libertario è il tema del libro, e abbiamo poi chiesto a Roberto Escobar, che pure è un nietzschiano costruttivo, diciamo, dello stesso genere di Albert Camus, un commento a questo brano che noi abbiamo pubblicato di Onfray. Professore Escobar, quindi a lei a questo punto, a me ha colpito una cosa che lei scrive: possiamo lasciare da parte Sartre, ma non Camus, anche proprio parlando di filosofia, una cosa che farà rivoltare forse molti ortodossi della filosofia, che magari una cosa del genere non se l'aspettano, no? Non lo so. Ma sì, può essere, io sono convinto che il compito del filosofo sia non essere ortodosso, sennò che filosofo sarebbe? Potrebbe essere forse un ingegnere, potrebbe essere un moralista, ma il filosofo deve capovolgere le pietre, secondo me, se posso usare questa espressione. E sicuramente Nietzsche lo ha fatto, come ha detto giustamente prima Armando, ha capovolto pietre scoprendo l'infondatezza di molte nostre grandi parole, da Stato a Dio a individuo e così via, però quelle pietre poi sono rimaste capovolte, forse anche per fortuna. Lui stesso a un certo punto si è rifiutato di trasformarle in sistema, queste pietre capovolte, dicendo: non sono abbastanza stupido per un sistema, nemmeno per il mio. Cioè c'è il rifiuto di ridurre il mondo dentro una costruzione concettuale che è sempre misera rispetto alla complessità del mondo. E anche Camus, che ha letto da giovane Nietzsche, che lo ha assimilato, che lo ha capito, anche Camus dice: io in un'intervista del 1945, a chi gli domandava se lui per caso fosse un sartreano, un discepolo di Sartre, rispondeva: no, io non sono neanche un filosofo, il che non è assolutamente vero, ma intendeva dire: non mi interessa affidarmi ai giochetti della ragione intesa come dimensione assoluta, mi interessa sapere, in un mondo che non ha più né assoluti storici né assoluti teologici, che cosa io devo fare. E tutta la sua ricerca filosofica, anche letteraria, risponde a questa domanda: che cosa io devo fare per vivere in questo mondo? La filosofia richiede tempo e approfondimenti. Il nostro tempo radiofonico però è finito qua. Io ringrazio Armando Massarenti in trasferta a Ginevra. Ci sentiamo domenica prossima. Grazie Armando. Buona domenica. E soprattutto Roberto Escobar, per essere stato con noi. Grazie anche a lei. Alla prossima. Grazie a voi, buona domenica. Per quanto riguarda Si può fare, invece, ci risentiamo tra poco, dopo il giornale radio, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua dunque, ben ritrovati alle 9:13 minuti, 800 24 00 24. Abbiamo dato un'occhiata ai giornali di oggi, tra poco si potrà anche intervenire in diretta. Se volete entrare in contatto con noi, interagire in diretta, potete trovarci su Facebook, Si può fare trattino Radio 24, anche su Twitter, l'account è @ Si può fare 24, il mio è @ Ale Maurizi. Vi ricordo anche che oggi, telefonando, si partecipa al concorso per vincere due biglietti a testa ogni ascoltatore della mostra Brain, il cervello, istruzioni per l'uso, che si tiene a Milano dal 18 ottobre fino al 13 aprile 2014. E quindi voi, per vincere questi biglietti, dovete chiamarci e darci la definizione più giusta, più corretta, a giudizio però insindacabile della redazione, cioè di noi, di stupidità, perché la mostra è sul cervello, istruzioni per l'uso, e noi vogliamo chiedere invece l'opposto, la stupidità. Dateci la definizione che più vi piace e poi parteciperete all'estrazione, appunto, cioè all'estrazione. Tre di voi vinceranno ognuno due biglietti della mostra Brain. Adesso però è il momento di dare le informazioni sul traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua. Allora, intanto vi voglio dire, parleremo adesso di due cose che sono successe questa settimana, due cose che hanno a che vedere con la solidarietà in Emilia. Parliamo del post terremoto, ce ne siamo già dimenticati, e della giornata della povertà, delle iniziative che si sono fatte, si stanno facendo, faremo un bilancio tra poco. E poi però c'è un'altra cosa che avviene oggi, la corsa contro la crisi. In Veneto partecipa anche il governatore Luca Zaia, testimonial Alessandro Del Piero. E noi volevamo provare a sentire Zaia per sentire un po' come che aria tira in Veneto. Adesso però lui ha cominciato a correre, chissà se fa tutti e 10 i chilometri, anzi forse sono 14, lui ha detto che ne faceva 10 di chilometri di corsa. Vabbè, staremo a vedere più avanti. Intanto però dicevamo l'Emilia Romagna, perché a quasi un anno e mezzo dal sisma c'è una buona notizia. La buona notizia è che c'è stato un gesto di solidarietà, cioè il regalo di due importanti centrali termiche per una scuola media e per un palazzo dello sport a Finale nell'Emilia. Purtroppo la cattiva notizia è che da quelle parti si sentono, manco a farla apposta, abbandonati, perché non se ne parla più, non ci sono più interventi diretti, la gestione dei fondi europei è complessa per la rete dei piccoli comuni che è stata coinvolta dal terremoto. Allora il nostro Dario Ceccarelli è andato a questa iniziativa di solidarietà, che ha previsto tra l'altro una biciclettata con alcuni campioni dello sport. Sentiamo. Si stanno ancora cercando le persone sotto le macerie di varie aziende e capannoni crollati. Nel pomeriggio è attesa la visita del ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri a Modena, che ricostruiremo. La popolazione colpita non sarà lasciata sola, promettono le istituzioni. Ricordate, è il maggio del 2012, durante una delle tante scosse che colpisce l'Emilia-Romagna e parte del Veneto e della Lombardia. Non vi dimenticheremo, avevano promesso le istituzioni sull'onda dell'emergenza. Fernando Ferrioli, sindaco di Finale Emilia, quando glielo ricordiamo, scuote rassegnato la testa. Noi siamo dimenticati, lo sappiamo, ma lo sapevamo già. Dopo Natale noi siamo stati scomparsi da ogni tipologia di notizia o anche solo di un po' di illuminazione, ma lo abbiamo solo in fase magari di qualche notizia particolare o qualche riapertura, ma in realtà noi siamo scomparsi. Scomparsi, dimenticati, purtroppo in Italia capita spesso, è il nostro limite, generosi nell'emergenza, meno generosi quando, passata la nottata, bisogna mantenere le promesse per chiudere le ferite. In questi comuni c'è anche una corsa ad ostacoli, con il rischio che i fondi europei per la ricostruzione, 670 milioni, vadano in fumo se non vengono spesi nei termini stabiliti. E così, sindaco? Stiamo correndo come dei pazzi, perché la comunità europea ci ha dato dei tempi molto stretti. Noi dobbiamo fare progetti, presentarli, avere l'accettazione delle commissioni, avere l'accettazione delle sovrintendenze, fare i lavori, finire i cantieri, farli naturalmente a regola d'arte, fare i contratti ovviamente e pagarli. Questo tutto entro il 19 dicembre, cosa che potete capire per una pubblica amministrazione piccola come quella come un comune di Finale Emilia o gli altri piccoli comuni che sono stati colpiti, non è in grado sempre di far fronte a una mole di lavoro così enorme, aggiungendo anche l'ordinario. In questo panorama certo non facile, ecco però il guizzo che aiuta ad andare avanti. L'iniziativa è di un'azienda privata, la Vaillant, che festeggiando con una biciclettata in compagnia di grandi ex corridori come Gianni Bugno e Davide Cassani, ha regalato due grandi impianti di riscaldamento, uno per il nuovo palazzo dello sport e un altro per la scuola media di Finale Emilia. Sindaco, finalmente un bel modo per farsi pubblicità. Ma non so se la Vaillant, oltre queste due centrali termiche, che insomma sono centrali termiche di ultimissima generazione, saranno probabilmente le primissime messe in Italia, quindi avremo anche primato, diciamo, anche perché saranno anche le messe in strutture non temporanee, ma strutture definitive che apriremo entro il prossimo anno, quindi un nuovo palazzetto che non abbiamo più neanche una struttura sportiva e le nuove scuole medie per 330 bambini. Solidarietà, quindi, una buona ragione, ma non l'unica che ha spinto la Vaillant a intervenire, come ci racconta Gherardo Maghi, amministratore delegato. Pur essendo, diciamo, un'azienda molto storica che compierà 140 anni l'anno prossimo, però sta spingendo molto con il concetto dell'energia e della sostenibilità, certo. Perché da qui noi poi abbiamo detto, perché non prendiamo anche l'occasione di fare anche della solidarietà vera per anche ricostruire un paese italiano attraverso un completo sistema rinnovabile. Quindi, e poi abbiamo colto l'occasione proprio per il finale miglia, per avere un po' un simbolo anche di poter dare anche una mano a un paese che si deve ricostruire e nella ricostruzione veicolare la miglior tecnologia possibile che ci garantisce anche un futuro migliore, un mondo più pulito, più green. Eccoci qua, allora questo era il mini reportage di Dario Ceccarelli da Finale Emilia, come avete sentito solidarietà, si va avanti anche così nei comuni che sono alle prese con il un anno e mezzo quasi dal terremoto e però insomma c'è anche calato un po' il silenzio e si fa un po' di difficoltà per esempio a raccogliere i fondi europei che pure ci sono, avrebbero bisogno di una mano questi comuni, così come avrebbero bisogno di una mano i quasi 9 milioni e mezzo di persone povere in Italia. Si è celebrata in settimana la giornata della povertà con diverse iniziative, sono le persone che vivono con meno di 500 euro al mese e sono davvero pochi. 500 euro al mese per sopravvivere, ci sono diverse strategie di sopravvivenza, non tutte queste persone forse sono davvero in condizioni di povertà, povertà relativa, giratela come volete, ma la situazione non è buona. E se andiamo a guardare tra l'altro cosa ha fatto proprio questa settimana la legge di stabilità sul fronte della povertà, si rimane davvero delusi perché sono stati stanziati pochi spiccioli, 5 milioni di euro per il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti e 250 milioni di euro per rifinanziare la vecchia social card, che poi abbiamo visto in varie inchieste come sia complicata anche da gestire. Se c'è un'emergenza è quella della povertà, non si capisce perché si fa una finanziaria da quasi 6 miliardi e per la povertà non ne viene fuori granché. Noi abbiamo convocato di nuovo con piacere Andrea Segre, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Buona domenica, fondatore di Last Minute Market e preside di Agraria all'Università di Bologna, perché il tema della povertà e dello spreco alimentare è molto connesso, stiamo imparando a capirlo da poco e però bisognerà metterci tutti e due i piedi per bene in questa vicenda, se no probabilmente non si arriva da nessuna parte, non si può continuare a sprecare cibo e a lamentarsi che c'è gente che non ce la fa arrivare alla fine del mese anche per quanto riguarda il mangiare. Prima di tutto professore, ricordiamo ancora una volta un po' le cifre di questo spreco alimentare che c'è in Italia. Le abbiamo raccontate proprio il giorno prima della giornata mondiale della povertà, perché il 16 ottobre è la giornata mondiale dell'alimentazione, in realtà della fame, e nel nostro osservatorio Waste Watcher viene fuori, a proposito di legge di stabilità, che ci siamo quasi, nel senso che lo spreco domestico in Italia, ciò che si getta via ancora buono, peraltro non si può recuperare perché diventa rifiuto sul quale poi pagheremo anche qualche tassa, tariffa, qualcosa si paga sempre, come abbiamo visto, vale circa una forbice fra gli 8 e 7 e 9 miliardi di euro, e mezzo punto di PIL a proposito. È una cosa enorme, eh? È una cosa enorme, poi è un'indagine a campione che abbiamo fatto nel nostro osservatorio, quindi possiamo anche metterci a discutere se sarà un po' di più, un po' di meno, ma il dato c'è. Peraltro poi quando si getta via del cibo, non solo si gettano via degli euro, ma anche degli ettari di suolo, dei kilowatt di energia, degli ettolitri di acqua, cioè delle risorse naturali. E poi vedere il giorno dopo che il 16% della popolazione italiana, sì, è in condizioni di povertà, e non è soltanto una povertà dove ti mancano dei bisogni non necessari, dove non riesci a soddisfare per l'appunto un bisogno essenziale, fondamentale, che è quello della fame, quindi possiamo parlare anche di povertà alimentare. È proprio incredibile questo accostamento tra queste due vicende. Non c'entrerà molto, però io in settimana ho visto un anche divertente approfondimento delle Iene su Italia 1 sulle cene elettorali, e faceva vedere come c'è un sacco di gente che va a mangiare a sbafo a queste cene elettorali, che va anche bene, perché così può essere anche una ricetta anticrisi anche questa, anche se solo per un giorno e per una sera, ma quanto cibo poi veniva sprecato o lasciato. E questo succede tutte le volte che si organizzano buffet e momenti, diciamo, di alimentazione o di catering in grosso. Anche questa è una cosa che fa indignare. Arriveremo un giorno a mettere delle regole, professor Segre, dei paletti, delle cose su cose come queste? Io credo di sì. Intanto, sempre dal nostro Waste Watcher viene fuori che una parte della nostra società, di noi consumatori, siamo un po' degli accumulatori selvaggi, pensiamo di vivere forse ancora nell'economia di guerra, e quindi facciamo la spesa e ai buffet poi ci abbuffiamo e non riusciamo neanche a finire. Fra l'altro non è soltanto delle cene elettorali, ma se uno pensa alle navi, agli aerei, ai villaggi vacanza, dove c'è tanto cibo, e fra l'altro noi lo tocchiamo come se dovessimo in qualche modo iniziarlo, e quello non si può recuperare, perché noi con la Spinut Market recuperiamo anche il pasto cotto non consumato, ma non certamente gli avanzi. Io credo che sia davvero una questione culturale, e la crisi speriamo che di finirla innanzitutto, ma speriamo che ci aiuti, perché è un comportamento, come posso dire, privo di buon senso, che non ha senso per l'appunto, perché poi alla fine quando gettiamo via il cibo sì, ancora buono, vuol dire che siamo arrivati alla frutta nella nostra società, nel vero senso della parola, cioè lo stiamo rottamando, certo, lo stiamo sostituendo con qualcos'altro. E bisogna invece pensare che recuperare il cibo in questo senso non è una cosa da vecchie massaie, da civiltà contadina, qualcosa che ci porta indietro, qualcosa che ci porta avanti, perché è un grande momento di civiltà. Come diceva lei, professore, il cibo è energia, è consumo di suolo, è la risorsa più importante che abbiamo, quindi davvero bisogna fare molta attenzione, ognuno di noi, ma certamente anche a livello generale, nei comuni, nelle grandi organizzazioni. Voi di Last Minute Market, e lei in particolare, state portando avanti mille iniziative da questo punto di vista. Ci vuole anche rincuorare un po' e fare un po' il punto su quelle che sono le cose più recenti che siete riusciti a fare in questi ultimi tempi. Tra l'altro, io la domanda la giro anche agli ascoltatori: 800 24 00 24, chiamateci se siete a conoscenza di progetti su questo, perché è bello anche farne pubblicità, farne diffusione e farli conoscere, professore. Eh sì, è proprio vero, è pieno di progetti e di iniziative che non si conoscono, e noi abbiamo lanciato questa carta per i sindaci, per le amministrazioni, l'abbiamo chiamata Spreco Zero, proprio un obiettivo sembra irraggiungibile, ma insomma bisogna andare in quella direzione, ridurre a zero lo spreco di risorse, cibo, acqua, energia, sono tutte risorse di cui abbiamo bisogno e che dobbiamo usare bene per stare meglio. Abbiamo fatto un premio in varie categorie, i migliori progetti delle amministrazioni che risparmiano, che recuperano cibo, acqua, energia, mobilità, suolo, e ce ne sono, non le ho dette tutte, ma per essere breve, e abbiamo scoperto che c'è un'Italia che funziona bene, che ha degli esempi che potrebbero tranquillamente essere copiati, copiare si può, anzi direi è non solo un diritto, è un dovere se i progetti funzionano, e quindi sono sicuro che dagli ascoltatori verranno dei casi che non si conoscono, perché non ci sono risorse per fare comunicazioni, e talvolta le amministrazioni stesse, messe sotto accusa e talvolta giustamente, non riescono neanche a farlo sapere ai propri cittadini, e quindi ci vuole veramente una sorta di patto, di alleanza, sì, di comunità che vada nella direzione che molti hanno già preso, quindi basta poco in realtà. Ecco, professore, però ci vuole anche sicuramente la spinta, l'organizzazione, la logistica anche per fare tutto questo recupero. Io ricordavo la cifra che nella bozza della legge di stabilità, che poi passerà al Parlamento, se non sbaglio, io ho letto, sono stanziati 5 milioni di euro per il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti. Si può fare un appello perché questa cifra aumenti a un livello più ragionevole, che possa aiutare tutti quelli come lei, come voi, come altre associazioni che si occupano di questo, ma che hanno bisogno, oltre che del volontariato, anche di una mano? Una cifra che potrebbe essere cambiata al passaggio della legge di stabilità in Parlamento. Un po' di solidarietà intelligente non farebbe male a questo Paese. Ecco, l'importante appunto è che questa questa solidarietà sia intelligente, che si ponga il fine di recuperare le risorse in modo sostenibile. E cosa vuol dire? Vuol dire che non devi far girare i prodotti da una città all'altra soltanto perché c'è qualcuno che ha bisogno, cioè bisogna essere appunto usare bene la logistica, e in questo senso la legge di stabilità potrebbe essere il momento nella discussione per entrare proprio nel merito, come fare a recuperare oltre alle risorse diciamo economiche necessarie. Ma c'è qualcosa di più, perché il Ministro dell'Ambiente ha varato un decreto molto opportuno per fare in Italia ciò che si fa già in Europa, un piano nazionale per la riduzione dei rifiuti, dentro il quale ci può essere e ci sarà una strategia nazionale per ridurre gli sprechi alimentari, dove si metteranno in rete tutti gli stakeholder, chi dona, chi riceve, certo, multi utility. E questo secondo me sarà un momento importante, perché l'obiettivo è ridurre gli sprechi, recuperare in modo sostenibile dal punto di vista logistico ed economico ciò che si getta via, e poi liberare delle risorse per aiutare chi ha bisogno, non soltanto diciamo con la carità, che pure è fondamentale, ma promuovendo in questo paese crescita sostenibile e lavoro. E speriamo, in bocca al lupo a lei e al governo su questo e a tutti noi. Grazie professor Segre, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. E adesso invece l'iniziativa a questo proposito, noi ci risentiamo dopo la pausa. La Fondazione Bruno Kessler di Trento ha progettato un'app che segnala le eccedenze di cibo e fa in modo che non vadano sprecate. Ce ne parla il ricercatore Adolfo Villafiorita. Bring the Food è un'applicazione per gestire le donazioni di cibo. Si tratta in sostanza di un social network in cui chi ha eccedenze di cibo è in grado di segnalarle sulla piattaforma per renderle disponibili a organizzazioni in grado di raccoglierle e renderle disponibili a chi ha bisogno. In questo momento abbiamo sperimentato l'applicazione in Trentino in collaborazione con il Banco Alimentare. Inizieremo presto una sperimentazione nella zona di Milano per allargare il bacino di utenti. L'applicazione si rivolge prevalentemente a piccola distribuzione e organizzazioni caritatevoli. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco cominceremo a sentire anche i vostri interventi, cari ascoltatori. Adesso però dovremo avere in collegamento la nostra Donatella Stasio del Sole 24 Ore. Buongiorno Donatella. Buongiorno. È insomma la nostra voce quando cerchiamo di capire le cose che riguardano la giustizia, e siccome ieri è arrivata la notizia dell'interdizione ricalcolata dal Tribunale di Milano per quanto riguarda il processo Mediaset a Berlusconi, 2 anni, eravamo partiti da 5 mi pare? Sì, eravamo partiti da 5 secondo il calcolo. Sì. Della Corte d'Appello di Milano, che però la Corte di Cassazione il 1 agosto ha considerato sbagliato, non tanto in sé, ma perché i giudici avevano fatto riferimento a una norma generale del codice piuttosto che a una legge, alla legge speciale sui reati tributari. Per questo motivo avevano rinviato su questo punto la palla, diciamo, di nuovo alla Corte d'Appello, per ricalcolare la durata dell'interdizione dei pubblici uffici sulla base appunto di quella legge, che prevede che l'interdizione possa essere minimo di 1 anno, massimo di 3. Quindi siamo rimasti in mezzo, diciamo, come richiesta. Sì, prima la richiesta era stata di 5 anni, ripeto, sulla base delle norme generali del codice. Sì. Dovendo fare riferimento ad un'altra norma di legge, la durata temporanea invece arriva fino a 3 anni. E ieri la Corte d'Appello l'ha fissata in 2 anni, evidentemente accogliendo la tesi del procuratore generale della Corte d'Appello, secondo la quale il calcolo andava fatto sulla base dello stesso parametro con cui era stata calcolata la pena principale. Ricordo che Berlusconi è stato condannato per il reato di frode fiscale, che è punito nel massimo fino a 6 anni, avendo avuto 4 anni. Ha detto il procuratore generale, 4 anni sono 2/3 del massimo, e quindi anche la pena accessoria. Cioè è stata parametrata a questo stesso parametro. 2 terzi di 3 anni. Donatella, adesso la domanda che le domande che tutti si fanno è sul futuro, no? Cioè, prima di tutto, quanto tempo ci vorrà? Perché adesso questa pena accessoria deve passare ancora al giudizio della Cassazione, così, cioè, non è ancora definitiva, vero? Sì, no, non è definitiva. Gli avvocati difensori di Berlusconi già hanno annunciato ricorso in Cassazione, ma probabilmente, considerati i tempi tecnici, addirittura ci potrebbe essere entro dicembre, più probabilmente tra gennaio e febbraio potrebbe arrivare la risposta definitiva della Cassazione, che insomma dovrebbe essere comunque di rigetto del ricorso. Perché insomma, altrimenti la Cassazione smentirebbe se stessa, non avendo nella prima analisi della sentenza cambiato tutto. A meno che non ci sia una motivazione della Corte d'Appello totalmente sballata. Oddio, chi lo sa. Però l'altra domanda che invece ci si fa è questo: siccome noi fino a ieri abbiamo parlato, fino a ieri l'altro, abbiamo parlato sostanzialmente solo, per quanto riguarda il leader del centrodestra, dell'incandidabilità quanto alla legge Severino. Adesso arriva il ricalcolo, che era atteso, va bene, però ci si chiede come si intrecciano queste due cose. Cioè, adesso che il Senato è comunque chiamato a questo voto, mettiamo che il voto ci sia prima che venga ricalcolata l'interdizione, cambia qualcosa o non cambia niente? Dunque, se il voto è prima della sentenza definitiva della Cassazione sull'interdizione, non cambia assolutamente nulla. Quindi, se l'Aula del Senato dovesse confermare la proposta della Giunta, Berlusconi decadrebbe dal seggio di senatore e sarebbe incandidabile per 6 anni. Ipotesi. Nel momento in cui quando arriverà poi la sentenza definitiva della Cassazione, supponiamo appunto di conferma di questa interdizione a 2 anni, di nuovo la Giunta dovrà prenderla in considerazione, ma presumibilmente si dovrà fermare perché manca il presupposto per valutarla, in quanto non è più senatore Berlusconi. Cioè, Berlusconi, essendo già decaduto per la Severino, chiaramente non ci sarebbe da valutare l'interdizione. Intervenuta dalla Cassazione, per quanto riguarda il processo Mediaset. Esatto. Diverso il discorso se invece l'Aula del Senato dovesse votare contro, perché allora a quel punto arriverà comunque la tagliola, diciamo così, dell'interdizione di Milano. Esatto, sia pure solo per 2 anni. Altra domanda però, Donatella, e grazie per la chiarezza, perché si legge di tutto, ma noi vogliamo capire un po' i fondamentali. Poi ognuno si fa l'idea che crede, cioè chi pensa che Berlusconi sia un perseguitato, chi invece debba andare a fare, debba uscire dalla politica già da tempo. A questo punto però, quale delle due misure dovrebbe prevalere sull'altra? Perché noi abbiamo sentito dire, per esempio, Gaetano Quagliariello, ministro del governo, colomba del PDL, ma comunque uomo legato a Berlusconi, dire: beh, se i giudici stabiliscono un'interdizione di 2 anni, non si vede perché il Parlamento, cioè la politica, dovrebbe, applicando la Severino, stabilire un'interdizione maggiore, che è quella prevista appunto dalla legge Severino. Questo punto? C'è un po' di confusione, solo in parte giustificata, perché la legge Severino prevede che nel caso di condanne superiori a 2 anni scatti appunto l'incandidabilità o la decadenza per una durata che è pari al doppio della pena accessoria, quindi dell'eventuale interdizione nel caso in cui sia prevista nella sentenza di condanna. Ma se non dovesse essere prevista, diciamo, una pena accessoria, in ogni caso, dice la legge Severino, il decreto Severino, l'incandidabilità non può essere inferiore a 6 anni. Allora, la particolarità qui sta nel fatto che solitamente pena principale e pena accessoria viaggiano insieme. In questo caso, nel caso di Berlusconi, stanno viaggiando separatamente perché, come abbiamo detto prima, è stato necessario effettuare un ricalcolo. Ma se avessero viaggiato insieme, i 2 anni di interdizione comminati dai giudici nella stessa sentenza non si sarebbero tradotti in 2 anni di incandidabilità, ma sempre in 6 anni, in base appunto alla legge Severino. Quindi non è vero che c'è una contraddizione, l'eventuale contraddizione, ma insomma qui veramente entriamo in un campo abbastanza complicato, nasce nel caso in cui si segue quell'interpretazione secondo la quale la legge Severino non è retroattiva, per cui si dice stiamo applicando una norma che prevede 6 anni di decadenza, mentre se non ci fosse quella norma la decadenza di Berlusconi sarebbe limitata a 2 anni. Ecco, non so se è chiaro, però in realtà l'equivoco, chiamiamolo così, nasce semplicemente da questa interpretazione, altrimenti non c'è contraddizione, perché ripeto, la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in ogni caso si traduce, in base alla legge Severino, in una decadenza che non può mai essere inferiore a 6 anni. Quindi è chiaro, quindi il nodo, diciamo, che resta da risolvere, volendo, è quello della retroattività, di cui alcuni esponenti, anche costituzionalisti, esponenti del PDL parlano, hanno parlato, avvocati eccetera, ma questa invece questa sovrapposizione tra interdizione e legge Severino si risolve così, tu dici, semplicemente nel fatto che la legge Severino ha un perimetro più ampio. Quando non c'era, quindi, la legge Severino, sì. Quando non c'era, se non ci fosse stata la legge Severino, sì. La condanna di Berlusconi a 2 anni di interdizione dei pubblici uffici si sarebbe tradotta in una decadenza per 2 anni. Adesso che c'è questa legge, c'è anche questa previsione che è più ampia. La legge ha stabilito che qualunque sia la durata della interdizione dai pubblici uffici, anche zero, anche se gli avessero dato anche un anno, facciamo il caso qui, il minimo un anno. La politica si è data questo criterio più stringente, che è di 6 anni. E fra l'altro ricordiamo anche agli ascoltatori che questa cosa è stata fatta sull'onda prima delle elezioni, con la paura del voto che andasse a grillo, che è andato lo stesso, perché c'è una forte ondata di spinta sulla legalità, sulla trasparenza, i partiti avevano paura e hanno dovuto dare un segnale da questo punto di vista. Quindi adesso rimangiarsi questo segnale politicamente vuol dire ridare in mano a Grillo la palla alle prossime elezioni. Questo lo dico io. Grazie Donatella Stasio per essere state con noi domenica mattina, però sai com'è, ieri è arrivata la notizia, un approfondimento dovevamo farlo, adesso cerchiamo di parlare anche d'altro. Ciao Donatella, grazie. Buona domenica. 800 24 00 24, tra poco anche con gli ascoltatori, abbiamo già il traffico, sì, allora torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24 con gli ascoltatori e con Carlo Gabardini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, è domenica. Ci siamo? Abbiamo fatto una levataccia anche oggi. Sì. Beh, insomma, confronto a te, io dovevo dare le notizie di giornata, abbiamo fatto già un sacco di cose, la rassegna stampa, approfondimenti. Sono arrivato molto prima, ma diciamo interdizione. Esatto. Cose terribili. Cose terribili della mattina, delle quali vi occupate voi, per fortuna. Mamma io, mia. Dacci una ventata di che cosa? Di notizie straordinarie. Straordinarie che vengono da questo tuo stage da opinionista Radio 24, giornalista opinionista che ci porta un punto di vista. Esatto. Non lo so, vediamo un po'. Adesso alzo anche le cuffie, vedi? Sto facendo uno stage anche di tecnico. Ma non alzare il microfono, perché sennò gli ascoltatori poi cambiano la stazione. Allora, ho trovato una bella notizia a Salerno, anzi più precisamente a Marina di Camerota, in provincia di Salerno, in un ristorante che si chiama Brera, nel centro cittadino. Una comitiva di turisti russi che vanno a mangiare in questo ristorante. Il ristorante è un ristorante famoso anche perché i proprietari sono già noti, perché uno di loro aveva mangiato davanti a un vigile una multa, diciamo, di sosta per sosta vietata in segno di protesta. Esatto. Però. Questi gestori di questo ristorante, a un certo punto i russi dicono: sì, vabbè, ma che cosa c'è da fare qui in paese oltre a mangiare questo ristorante? E siccome non è un momento di alta stagione, non c'è niente da fare, il ristoratore dice: guardi, non c'è niente. I russi si annoiano moltissimo e minacciano, diciamo, di andarsene. Dicono: che noia questa città. E allora il ristoratore gli dice: beh, se volete, io ho una vecchia Fiat Punto, se volete potete distruggerla con dei bastoni. Loro ci pensano e dicono: beh, bella serata, e gli distruggono la macchina. Cioè, per mantenere, cioè, per tenere questi, questa comitiva di russi nel proprio ristorante, di modo che non se ne andassero e magari, non so, bevessero anche la mazza caffè, gli ha fatto sfasciare la propria automobile. Ma la domanda è: quanto pagavano di conto i russi? Tanto, perché evidentemente tanto. Ma lui, tanto. Lui ci tiene a precisare che è una vecchia Fiat Punto, quindi diciamo non è che... però, ciò non toglie, devo dire che... Non credo che sia... Ingegnarsi fino a questo... Nel senso che io mi immagino questi russi che si annoiano e questo gestore che dice antici, cosa faccio io? Cosa posso fare per tenerli qua? Ma a te ti verrebbe in mente di dirgli beh, c'è la mia vecchia macchina, nel senso che di solito, non lo so, lo si fa con la moglie, credo, non so, magari... Se vuole, le posso prestare mia moglie, ma addirittura, vabbè, non importa. Magari non era sua l'appunto, chissà. Giusto. Poi... Sempre automobili, questa volta però in Germania, a Berlino, una coppia che travolti da un attacco di passione, che dicono dobbiamo, dove andiamo, vanno nel garage del vicino e diciamo si accoppiano sul cofano della Citroen rossa del vicino e poi se ne vanno. Torna il vicino, vede la macchina completamente distrutta, beccano subito i due, diciamo, che hanno copulato sulla sua macchina, e quelli dicono vabbè, ma noi non abbiamo fatto tutti questi danni. E quindi in realtà la notizia, più che il fatto di questa coppia, diciamo, che distrugge un'automobile, è il perito, c'è voluto l'intervento di un perito che con, diciamo, un cofano simile e due figuranti simili, ci tengono i tedeschi a precisare, della stessa altezza, della stessa corporatura, dello stesso peso, sì, vabbè, dei due che si sono accoppiati, hanno riprodotto la scena. E questa mi sembra anche un'idea bellissima, farci un cortometraggio perfetto di questi due figuranti. Scusa, ma chi è che ha dato questa notizia? Inventata sicuramente? Dov'è? No, è sulla stampa. È sulla stampa. Sulla stampa? Questa. Vedi, notizia... cosa bisogna fare per pubblicare, per vendere? Assolutamente. E poi? Poi, una notizia che viene dalla Germania, ma che riguarda tutto il mondo, riguarda la droga, il nuovo sballo è fumare le ortensie. E questa cosa mi sembra straordinaria, forse perché mia nonna aveva delle balconate di ortensie, quindi in questo momento A casa mia, nel giardino condominiale, c'è pieno di ortensie. Esatto, non ho mai visto però va nessuno, detto però, va che... detto che è diciamo è, appunto, è la nuova frontiera della droga del fai da te, ma è molto molto pericoloso, che in realtà le conseguenze di questo tipo di fumo possono anche essere gravissime, perché addirittura possono produrre l'acido cianidrico, che in realtà è più conosciuto con il nome commerciale di Zyklon B, che è quello che usavano i nazisti per gasare gli ebrei. Ah, veniva dalle ortensie? No, in realtà è lo stesso composto, non credo che lo facessero con le ortensie, non credo proprio che lo facessero con i fiorellini. Questo agghiacciante, direbbe Crozza. No, è giusto ricordare che in realtà può essere pericolosissimo, se no uno, appunto, ha una simpatica nonnina e va a casa sua e si fa delle ortensie, invece conviene che no. Sentiamo un po' gli ascoltatori, va, se su cosa vogliono intervenire. 800 24 00 24, c'è anche il concorso, la mostra Brain, si vincono biglietti, dovete darci la definizione di stupidità. Stefania da Bergamo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Io chiamavo per quanto riguarda lo spreco alimentare. A Bergamo c'è un ipermercato praticamente che i prodotti che non sono scaduti, però in giornata non vengono consumati, piuttosto che buttati, vengono dati a un'associazione di volontariato che poi pensa a distribuirli, a riciclarli e a non sprecarli. Mentre invece io nella mia piccola gestione familiare praticamente sono la regina del surgelato, congelo tutto, le cose che avanzano, i cibi che mi avanzano piuttosto che buttarli, li congelo e poi li riutilizzo. Ecco, giusto. Anche cose, tutto poi si può congelare, perché su questa cosa di congelare o non congelare... Tipo le cose già congelate non si possono congelare, o è mia mamma che mi ha insegnato così? No, non si possono congelare, però se vengono cotte posso poi congelarle. Cioè, congelata cosci, poi cotta e dopo si e può ricongelare. L'avanzo la congeli invece di buttarla, anche se è un piccolo pezzettino. Certo. Grazie Stefania. Io ho chiesto agli ascoltatori appunto di darci anche un po' di buone pratiche, di buoni progetti, iniziative su questo fronte, visto che è stata la settimana della giornata dell'alimentazione, della fame e dell'alimentazione, ma anche della povertà in Italia. Ho ricordato le cifre, 9 milioni di poveri, e insomma il professor Segre ci ha ricordato le cifre invece dello spreco alimentare incredibile. Queste due cose messe insieme dovrebbero far sì che una mano salva l'altra, ma si fa ancora molta difficoltà. Paolo da Vicenza, buongiorno. Paola, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Lei sta passando un passaggio a livello, cos'è l'ingresso? No, sono per strada. Niente, sulla scia della radioascoltatrice di prima volevo dare anch'io il mio apporto positivo, nel senso che adesso in tanti ristoranti, per esempio, una volta, quando si sono delle grandi cerimonie, bene, viene avanzata una grande quantità di cibo, si chiede, visto che viene pagato, se si vuole portarlo a casa. E sì, questo qualcuno l'ha sempre fatto, ma in realtà in moltissimi ristoranti non lo fa. Il doggy bag, giusto? Sì, non si chiama. Una volta ci si vergognava e ci diceva sì, la doggy bag, adesso invece... Ma sa qual è il problema? Perché una volta era per il cane, adesso invece uno forse li porta a casa per sé. No, ma sa qual è il problema, Paola? È che in effetti un conto è non sprecare il cibo, un conto è pensare che uno che ha fatto un matrimonio, una buffata, poi si porta a casa dell'altro cibo e deve mangiare ancora. E invece forse quel cibo potrebbe servire a sfamare qualcun altro. Però è giusto anche non buttare via nulla. Certo, sì, certo. E poi volevo anche dire un'altra cosa. Io ho lavorato in un piccolo panificio per un breve periodo. E per esempio alcuni dolci che bisogna solamente vendere entro la giornata perché non si possono riutilizzare, vengono comunque donati alla Caritas, alla mensa serale dei ci sono delle cose che funzionano, altre molte non funzionano, se no non ci sarebbero queste tragiche cifre di sprechi, ma ci sono quelle che funzionano. Noi vi chiediamo proprio di raccontarcele, grazie Paola. Andiamo tutte donne oggi, nessuno però che chiami per la mostra. Maria da Roma, vi ricordo che se volete potete darci la definizione più giusta secondo voi di stupidità, in modo da partecipare al concorso. Saremo noi a decidere, noi della redazione, chi dà la definizione più bella vince due biglietti della mostra Brain dal 18 ottobre al 13 aprile a Milano, cervello istruzioni per l'uso. Maria da Roma, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Lei vuole dare una definizione anche di stupidità? No, non è preparato. No, no. Spreco alimentare, sì. Cose che io ormai ho una certa età. Sì. E anni fa, parlo di un 30 anni fa, 28-30 anni fa, io personalmente ho cercato di recuperare quello che avanzava da una mensa molto grande, di un ente molto importante, ma recuperare le cose confezionate, tipo i panini, tipo i formaggi, tipo mozzarella, eccetera, eccetera, e le ho fatte donare, d'accordo con i miei capi, eccetera, eccetera, le ho fatte donare a un ente religioso che curava, aveva in cura dei bambini orfani, eccetera. Mi domando, per quale motivo, per esempio, non ci si mette d'accordo con le mense di grossi enti? Capisco che ora, con la crisi che c'è, è difficile che possano avanzare delle cose. Ah, dice che non avanza più niente adesso? Ma non lo so, io penso che la gente mangi tutto, se lo porti a casa, certo, come diceva prima la signora. Ma perché non mettete d'accordo le mense universitarie, gli enti grandi che hanno appunto l'intervallo, che fanno, quelli che fanno orario unico, orario lungo, diciamo fino alle 4, 4 e mezza, devono mangiare da qualche parte. Allora, se hanno le mense dentro nei vari enti, per quale motivo non utilizzare tutta questa roba che poi... Comunque, io so che 30 anni fa, dopo aver fatto questo lavoro per 2-3 anni, così, mi hanno detto questo aiuto, diciamo. Maria, dobbiamo salutarci qua, grazie. Purtroppo il tempo a nostra disposizione in questo primo spicchio di programma è finito. C'è il giornale radio, la pubblicità, il GR, poi torniamo subito dopo, a tra a poco. Dopo. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Buongiorno. Eccoci qua, messaggi sulla stupidità, la definizione più giusta da dare per vincere i biglietti della mostra Brain. Anche se ricordiamo che bisogna telefonare. Però li leggiamo così per giusto. Gusto. Dice un ascoltatore: l'incapacità di creare collegamenti logici. Stupido è chi lo stupido fa. Bella questa, indisponente ottusità, questa anche non è male, cagionare un danno a un avversario senza averne vantaggi, anzi ricevendone danno, è la politica in Italia, dice Carlo. Ne ho visto un altro che dice fare un danno ad altri senza trarne un vantaggio personale. Strano questa lettura di forse stupidità. Forse è lo stesso ascoltatore che scrive con due telefoni diversi. No, è Nicola. 800 24 00 24, tra poco riprendiamo a sentire anche i vostri interventi, adesso andiamo in campagna. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh, quante bestie allo zio Cesco, esco, esco, esco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, pid, pid, quante quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. C'è la capra, capra espiatoria, c'è il gomito, gomito del tennista, il tennista sconsolato non può più giocare. Noi continuiamo a dirlo che bisogna andare in campagna, ma non in senso negativo, vai a lavorare in campagna, no, in senso positivo, cioè tra tanti dati negativi che ci sono, calano per esempio anche le iscrizioni all'università, sai Gabardini? Certo. Quando l'abbiamo fatta noi, forse cioè, non c'era la crisi e si andava più facilmente, le famiglie avevano più disponibilità economiche. E qua era tutta campagna soprattutto quando l'abbiamo fatta noi. Adesso invece è il contrario, quando non è più campagna e non si va più all'università, ma invece gli iscritti all'Università di Agraria c'è un boom, più 40% anche quest'anno. Beh, è un segnale che si sta aprendo una strada, finalmente si sta capendo. Non una strada, un vicoletto, un viotto, in mezzo un all'orto. Perché una strada, abbiamo no? tolto la musichetta di Elio, che era bellissima, era perché era finita. Salutiamo Antonio Di Pietro, che abbiamo voluto chiamare, oltre per parlare anche un po' di attualità, anche per questo, perché potrebbe essere un ottimo testimonial. Buongiorno Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ho finito ieri la vendemmia e quindi sono in campagna in questo momento, ma mi sto bevendo il latte della capra. No, pensavo il vino, è perfetto. Si sta bevendo, io pensavo il vino, ho fatto ieri la vendemmia. È già finita la vendemmia, Di Pietro? Sì, la vendemmia deve essere un po' dappertutto, sta quasi finendo la raccolta del suo. Poi, come lei sa, sì, c'è chi vendemmia in proprio, chi vende nelle cantine sociali. Io certo, ho un pezzo di vigna che ho rimesso in piedi in memoria di mio padre, quest'anno ne è uscita un po' di più, allora un po' l'ho portata alla cantina sociale. Ah. Sono iscritto alla coltivatori, sono un coltivatore a tutti gli certo effetti. E è un piccolo coltivatore, per l'amore di Dio. Poi qualcuno scambia le mie proprietà immobiliari, nel senso le mie particelle agricole per appartamenti, e questo mi gira le balle. Ma allora, quanto vino fa? Quanto vino fa? Beh, io per me e sì, per gli amici, per ripetere, quest'anno ne avrei fatti di più, ma l'ho data alla cantina sociale perché sennò era troppo. Ma per me e per gli amici io faccio non oltre 12-15 quintali l'anno. Quale viene meglio? Insomma, quale viene meglio tra il suo e quella cantina sociale? Quella cantina sociale in genere viene meglio perché è più, cioè, la sanno fare meglio, o viene meglio il suo perché è casereccio? No, sono buone tutte e due. Il mio, però, qual è la caratteristica? Io lo faccio ancora a mano, nel senso che non ancora metto additivi, faccio il crudo e quindi voglio dire va bene per essere il novello. Se devo invece metterlo a invecchiare, allora devo stare un po' più attento. Quest'anno ho fatto un po' di novello e un po' che voglio lasciare all'invecchiamento per ricordare. Deve sapere che quando sì, c'è un'abitudine da noi, quando si fa la prima vendemmia della vigna che si mette, la prima vendemmia si lascia un po' per ricordo per i futuri. Mio padre, che quando bello, sono nato io sono nato era il 2 ottobre, mio padre quando sono nato stava vendemmiando, allora ha preso una piccola botticella di un quintale di vino e l'ha detto questo mio figlio se lo berrà quando si sposa. Io così ho fatto, non è che era il massimo perché era passato tanti anni, però quest'anno io, siccome è il primo raccolto che faccio di un nuovo pezzo di vigna che ho rimesso in memoria di mio padre, quindi ho dovuto fare un po' di vino in più per lasciarla per quando si sposeranno i miei figli. Ecco, cioè, secondo me così uno si sposa molto presto per bere il vino buono, diciamo. Dipende se è ubriacone o meno. Certo. Dipende poi se il vino è buono. Secondo me chi dice che Di Pietro, la parabola, che adesso lui, poverino, non fa più politica, perché secondo me non ha capito niente, perché sentite il tono dell'umore, a parte che è lo stesso suo di quando faceva politica, sempre grintoso, eccetera, però io credo che si diverta parecchio, anche perché nella vita ci sono momenti e momenti. Cioè, lei le ha passate di tutte, magistrato, in prima linea, ministro, politico, battaglie. Adesso si piglia un periodo anche tranquillo. Ma neanche tanto riposo, perché comunque è domenica mattina ed è già sul campo, giusto? Cioè, magari a quest'ora ormai già siamo. All'alba bisogna essere lì. Il contadino segue il sole, sì, quando si alza certo, il sole, quando all'alba per forza, perché le luci certo elettriche non ci possono all'alba tramonto. Tra l'altro c'era perché poi Di Pietro lavora davvero, io non credo che abbia fatto solo le posa con noi o quando ha fatto le foto. Mi permettete una cattiveria, io non vado in campagna con le scarpe di marca, come ho visto la fotografia di D'Alema in Umbria la settimana scorsa. Questa è una frecciata. Ci stava, c'è campagna e campagna, poi c'è la campagna elettorale, direi così per chiudere. Voglio dire a chi ci ascolta, purtroppo per chi non mi può sopportare, alle prossime europee ritorno. Sto semplicemente qui, appunto, ritemprando un po' le membre in attesa. Come torna? Come torna alle prossime europee? Col nome dell'Italia dei Valori, perché è meglio solo che malaccompagnasse. Per chiudere la questione di D'Alema, la battuta, cioè, perché una delle famose cose che diceva sempre Berlusconi contro i politici sinistri, cioè non hanno mai lavorato, non gli affiderei mai niente, i miei risparmi eccetera. Di Pietro ha lavorato prima come magistrato, adesso è uomo concreto, fa delle cose, quindi da questo punto di vista fa il vino addirittura più concreto di così. Il vino è una delle prime cose che deve fare un contadino. Io ripeto, io ho voluto rifare. Ma lei fa solo il vino, non fa solo il vino? No, c'ha gli animali. Io ho voluto rifare la fotografia di quando mi ha lasciato mio padre, e quindi ho rimesso gli stessi tipi di animali che ha lui. Io ho un paio di mucche, una marchigiana, una svizzera, ho il cavallo, asino, pecore, capra, conigli, galline. È stata proprio un'operazione tradizione. Un'operazione a Marcord, direi. Tradizione. Voglio soltanto dire una cosa, perché prima stavate dicendo, adesso passando dallo scherzo al concreto, prima stavate dicendo appunto agraria, si stanno riscrivendo molto, eccetera, eccetera, ed è una buona cosa, perché comunque sia è stato un settore un attimo abbandonato. Purtroppo, e di questo dovremmo prendere coscienza tutti coloro che ci occupiamo della cosa pubblica, mio padre con quel terreno che aveva, stiamo parlando di 15-20 ettari di terra, lo dica chi ci ascolta, che sembra poco e sembra tanto, ma 15-20 ettari di terra in una campagna molisana di collina e con le pietre, mio padre ci ha fatto grande tre figli. Io intanto posso permettermi di coltivarlo, in quanto è diventato un hobby, perché lei mi deve spiegare una cosa. Io faccio l'olio, per esempio, no? Sì. L'olio quest'anno l'ho dovuto vendere a 4,50 euro. Al chilo. A me costa 7 euro. Allora io non l'ho venduto, l'ho regalato. Ma il concetto è questo, che oggi se andate nei supermercati lo trovate anche a 3 euro, a 3,50 euro l'olio, ma perché magari viene dalla è 3,50 euro quella che viene dalla ma quelli sono prezzi, sono i prodotti civetta che mettono lì per... Quando vai nel supermercato e trovi le uova cinesi, io mi chiedo, adesso ieri ho fatto una discussione enorme, io c'ho anche le galline, per amore di Dio, c'ho anche le chiocci, i pulcini non le vado a faccio in batteria, le faccio attraverso le chiocci. A me, io ripeto, lo faccio perché posso permettermi, perché faccio un altro mestiere, ma è il contadino che fa solo il contadino. Un uovo gli costa 50 centesimi al giorno, tra da mangiare la gallina, assistere, fare, dire, eccetera. Se vai al supermercato, tu trovi la scatoletta di 6 uova a 50 centesimi adesso. Ecco, potrebbe essere questo qui dei prezzi, no? Perché tutte le volte che parlo con qualcuno che lavora in campagna, c'è sempre questa questione qua. Bisogna intervenire. Se Di Pietro si candida alle prossime europee, ma facciamo una battaglia su questo, smettiamo di parlare di Berlusconi, di legge di stabilità, cioè parliamo di queste cose qua, che poi alla fine interessano un sacco di gente. Lo voglio dire ai miei amici che stanno al governo, io ci sono stato al governo, ho fatto 2 volte ministro, lo so. Il problema tra l'agricoltore e il consumatore e la distribuzione e la filiera dell'intermediario e la filiera che si mette in mezzo, il contadino prende troppo poco e il consumatore paga troppo. Allora in questa filiera bisogna intervenire per ottimizzare, e soprattutto io sono per la globalizzazione, per l'amore di Dio, ma la globalizzazione non può essere solo del mercato, deve essere anche dei diritti, perché se vanno in India, in Cina e tengono come schiave le persone, non lo pagano, li fanno morire di fame e non gli costa niente, è chiaro che non è competitivo. Se lì, io ho visto i carciofi l'altro giorno al mercato, ma al mercato qui nel sud, neanche a Milano, ho visto il mercato che dietro, nella parte di dietro, erano tutti affumicati, c'erano delle sostanze che evidentemente le fanno apposta per farle apparire belle, ma belle non sono. Quando tu hai un pollo che in 40 giorni di batteria arriva già sul tavolo. Ci siamo persi. Espertissimo. Carciofi, non abbiamo capito la storia dei carciofi. Ci sono. No, però un momento, facciamo un po' d'ordine. Allora, intanto dobbiamo dare la linea al traffico, perché sennò qua. Perché qua c'è traffico, perché non siamo in campagna. Non siamo lì dove lei. Com'è una bella giornata lì? Sì, no, qua è una bella giornata in questo momento, sì. In questo qua noi momento. Aspettiamo da un momento all'altro invece la pioggia, facciamo il traffico, poi torniamo con Di Pietro, facciamo ancora qualche ragionamento sulla campagna, magari anche su qualcosa di attualità, non so, legge di stabilità, amnistia, indulto, lei ha fatto una battaglia furente contro nel 2006. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh. Quante bestie allo zio Cesco, esco, esco, esco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, pid, pid. Quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. Io di Pietro glielo dico, cioè lei si candida alle europee, fa benissimo, però io preferisco la versione così, no, non che come politico, no, per la modestia, però secondo me potrebbe avere una grande utilità un personaggio come lei, anche proprio a parlare di queste cose, c'è bisogno di parlare di queste cose. Se prima delle elezioni, prima di entrare in par condicio, ci risentiamo ogni tanto, facciamo un po' il punto su come sta andando la vicenda, va bene? Ma io sono disposto, non a parlarne sul piano politico, e poi la gente si è rotta le balle di sentire tutti questi talk show della cosa, non te ne può più, io poi, per dirlo io che mi sono rotto le balle di stare a sentire bene o male parlare di Berlusconi, è finito il tempo di Berlusconi, di Di Pietro, di Bossi, dell'uomo al comando, è finito. Oggi come oggi dobbiamo dare spazio ai giovani. Chi di noi ha un po' di esperienza ce lo deve mettere nel campo di cui ha fatto qualcosa. Io credo che qualcosa di giustizia, avendo fatto il magistrato, ci azzecco. Credo che qualcosa per far capire che cosa vuol dire rilanciare la piccola e media impresa, soprattutto sul piano dell'agriturismo, sul piano della produzione ecologica, della biodinamica, di ciò che riguarda l'agricoltura, eccetera. Ma dovremmo metterci un po' più al servizio, non a pensare di prendere i voti soltanto appunto perché siamo ben rilevati. Capito Matteo? Mi riferisco a Renzi. Questo glielo mandiamo, glielo facciamo arrivare in qualche modo. Vabbè, Di Pietro, fermiamoci qua per il momento. Grazie mille per essere stato con noi. Tanti auguri. Buona domenica, ci risentiamo sicuramente. Arrivederci. Grazie mille. Vabbè, insomma, questo era un bello spaccato. Però non sta chiamando nessuno per questa benedetta stupidità. È la stupidità. Tu come la definisci? È non telefonare. Io la incarno la stupidità, quindi sono la definizione, direi, di stupidità da un sacco di tempo. Due definizioni hai dato: la incarno e la stupidità e non telefonare. Sari da Varese, buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Complimenti, ho sentito Di Pietro che condivido, bisogna io vado a fare anche la vendemmia e mi piacerebbe molto fare una settimanina lì in Molise con lui, perché so cosa vuoi, amando il vino. Beh, uno si divertirebbe sicuramente con perché lui, il discorso è sulla stupidità. Allora, volete la mia definizione? Sì. Allora, secondo me, io ho 68 anni e credo che questa mostra sia molto interessante perché tratta proprio quello che io applico ancora nella vita, e secondo me appunto la stupidità è coltivare con ottusa arroganza ciò che ti porta a vegetare, anziché creare i presupposti della gioia di vivere, perché i neuroni purtroppo fisiologicamente si spengono già da soli, e se non cerchiamo di mantenerli un po' in vita dandocene una mano, abbiamo questi risultati. Sari, per me ha già vinto, io lo dico, mi dispiace per gli altri, ma io sono troppo stupido per capirla questa definizione. Cioè, lei ha detto che bisogna muoversi, bisogna fare, non bisogna stare fermi, perché è stato vegetativo delle persone, c'è l'indifferenza, la moscezza, che è la vera stupidità. Brava Sari, no, abbiamo capito, va benissimo, grazie, lasciamo spazio anche ad altri come Michele da Torino. Scusi Sari, ma se dobbiamo fare un po' di altre definizioni. Michele, buongiorno. Buongiorno. Prego. Fra l'altro se ne vince tre, sono tre gli ascoltatori che vincono. Io ho detto che Sari ha già vinto per me, poi il giudizio sarà della redazione, ma se vincono tre anche perché qualcuno può chiamare e dire la stessa identica definizione di Sari. Michele, prego. È un discorso che se ne parla, la tira lunga, se ne parla perlomeno da 10 anni, e fino a quando però si continua a fare una politica che si guarda gli interessi solamente di chi ha. Io non ho capito di cosa sta parlando, Michele, mi scusi. Non ho capito il soggetto, di cosa sta parlando, Michele. Pronto? Pronto? No, Michele, non ci sento. Non abbiamo sentito l'inizio. Lei voleva dare la definizione di stupidità? Sì. Certo. Qual è? Volevo dirle la definizione di stupidità che ho pensato è stupido chi per far male agli altri fa male anche a se stesso. Va bene, grazie Michele. Chi per far male agli altri fa male anche a se stesso. Ne sentiamo un altro velocemente. Giorgio da Roma, buongiorno. Giorgio da Roma, buongiorno. Ci sente? Già un po' che è in attesa forse. Giorgio? Sì, no. Pronto. Eccolo, Giorgio, prego. Per la verità non sono di Roma, sono della provincia di Modena, non so se è la stessa. C'è un errore, no, allora è lei, c'è un errore nella trascrizione, ma va bene. Giorgio, però Giorgio si chiama Giorgio, giusto? Sì, Giorgio, va bene. Una su due l'abbiamo beccata. Complimenti per la trasmissione, perché voi siete anche molto aperti alla discussione. Grazie. Grazie. Seguo tanto tempo in macchina e anche a casa. E allora, siccome stamattina ho sentito il sindaco di Finale Emilia, provincia di Modena, io abito, che è una zona terremotata, io abito proprio vicino, ad alcuni chilometri, e abbiamo gli stessi problemi. Sì. Mi ha stuzzicato questo intervenire, chiedere questo intervento, perché ha detto delle cose veramente giuste, purtroppo. Purtroppo, nel senso che dopo l'emergenza si va a finire nel dimenticatoio, giustamente ha detto questo sindaco, perché in effetti la solidarietà, come ha detto anche il sindaco, è avvenuta da parte delle istituzioni, da parte anche di singoli privati, e noi stessi tutti abbiamo collaborato, tutti quanti, nel senso che ci siamo dati da fare. Ma il problema adesso è che dopo ben 17 mesi non sappiamo quando possiamo rientrare nelle nostre case, che tuttora sono inagibili. Giorgio, lo so, purtroppo sì, noi abbiamo voluto accendere una lampadina su questo con il reportage di Dario Ceccarelli da Finale Emilia. I problemi ci sono anche nelle altre città che sono state colpite dal terremoto quasi un anno e mezzo fa, però insomma lì c'è stata un'iniziativa, questa biciclettata con alcuni campioni, si va avanti così anche a colpi di solidarietà, lo so, non basta, però era un modo per parlarne. Grazie anche a lei per la sua testimonianza. Vogliamo fare ancora un'altra telefonata prima di andare in pausa. Ambrogio da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Eccolo qua, prego. Niente, volevo premettere che la mia definizione, che è la cosa più stupida, è possedere l'intelligenza, averla costruita e non usarla. Ecco, questo mi sembra... Va bene. La fortuna di... premetto che non credo al concetto di intelligenza come dono dall'alto, ma l'intelligenza si costruisce sempre, come tutte le cose, con fatica. Va bene, Ambrogio, voleva dire anche qualcosa sull'attualità o solo su questo? No, solo su questo. Va bene, perfetto. E quindi penso che non trasmetterla sia la stupidità più grande. Grazie Ambrogio, partecipa anche lei all'estrazione? No, all'estrazione, continuo a dire all'estrazione, ma non c'è estrazione, non c'è. Siamo noi che decidiamo. È insindacabile della nostra redazione. Ne vogliamo sentire un'altra, Ornella, va, poi andiamo in pausa. Ornella, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dico la definizione di stupidità. Sì. Ripetere sempre gli stessi errori e lagnarsi del risultato. Brava, chi fa sempre le stesse cose otterrà sempre risultati. Grazie Ornella. Prego, arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Buona giornata, 800 24 00 24, facciamo una breve pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Vabbè, uno stacchetto così. Agile. Reduce, reuse, recycle, caro Gabardini. Questa è la nostra sigletta quando parliamo di che cosa? Di ridurre, riutilizzare, riciclare. Perché certo. La storia che vi andiamo a raccontare è la storia di una fabbrica dismessa, anzi fallita, la Videocoop. Anzi no, il nome della fabbrica è un altro, adesso però non facciamo confusione. Salutiamo intanto Marco Aversa, che è presidente della cooperativa Videocoop, che è la nuova iniziativa. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buona domenica. Come si chiamava la fabbrica dismessa? La fabbrica dismessa si chiamava Videocon. Videocon, ecco, esatto. Dalla Videocon alla Videocoop, perché... Alla Videocoop. Esatto, sempre di video sempre parliamo. Video. No, in realtà parliamo di una cooperativa che nasce sulle ceneri della Videocon. Quanti dipendenti c'erano? Adesso è fallita l'azienda? Erano 1200 persone. Quando c'è stato il fallimento? Quest'estate, vero? Il fallimento c'è stato il 14 di giugno. Esatto. Da allora, un gruppo di voi... si è messo in testa, un po' come abbiamo visto nelle cronache che sembravano marziane in Argentina dopo il fallimento, le fabbriche recuperadas, eccetera, eccetera, cioè la gente, gli ex dipendenti che dicevano: beh, che stiamo a fare qua con le mani in mano? Piuttosto che stare o in mobilità o in cassa integrazione o senza niente, abbiamo dei locali in disuso, abbiamo del materiale, abbiamo delle idee, della forza lavoro, facciamo qualcosa. E voi che cosa è che avete pensato di fare, Aversa? Allora, le nostre capacità erano quelle di assemblare i televisori e quindi assemblare anche le parti elettriche del televisore. Abbiamo pensato di fare un discorso all'inverso, quindi togliere tutte quante le parti e quindi distruggere quello che avevamo costruito negli anni, quindi di fare il procedimento inverso dei materiali elettrici e elettronici. E quante persone sono coinvolte in questa cosa intanto? Siamo 5 persone. Ma è possibile che di tutti i dipendenti che sono coinvolti nella perdita del lavoro, solo in 5 avete avuto il coraggio di fare? Intanto complimenti, perché... Grazie. No, perché non è una cosa da poco, inventarsi una cosa del genere. So che avete avuto anche il sostegno, credo, da parte di chi? Sì, abbiamo avuto il sostegno Ministero dello Sviluppo. Da parte della Lega Coop, che ci ha portato avanti. Abbiamo avuto il sostegno dalla BIC Lazio, dall'onorevole Daniela Bianchi. Abbiamo avuto il sostegno della BIC Lazio anche, che ci siamo incubati per fare anche dei percorsi formativi all'interno e quindi riportarci avanti a questo discorso di progettualità. Ecco, ma diciamo, come sta andando avanti? Cioè, avete la speranza che questa cosa possa veramente funzionare? Perché è chiaro che c'è un mare aperto, una prateria di fronte a voi, perché sul fatto di dover riciclare, recuperare, riutilizzare, questo ormai è acclarato, ci sono delle leggi europee, per esempio sui materiali elettrici, no? Ci sono degli standard, che voi credo che anche a questo fate riferimento, perché questo materiale poi ha un valore sul mercato. Sì, noi abbiamo un valore praticamente questo qua. Noi vorremmo utilizzare i fondi FERS, fondi europei per lo sviluppo regionale, del 2007-2013, dove noi parteciperemo circa 235 milioni di euro. E il progetto è stato portato alla regione, sembra che l'abbia sposato in modo chiaro. Noi vorremmo fare questa azienda, questa filiera di RAE, praticamente per R2 R4. Perché il RAE, però, diciamo che cos'è? Spieghiamolo perché non lo sa nessuno. La raccolta è differenziata degli elementi elettrici e elettronici. Esatto. Tipo esempi, quindi, facciamo un po' di esempi. Facciamo frigoriferi, sì. Televisori. Congelatori, di tutto quello che ha a che fare con l'elettronica, con l'elettricità, il computer, il televisore, sì. Il telefonino, tutto quello che riguarda l'elettrico e l'elettronico. E per smaltire queste cose, però, mi scusi Marco Aversa, per smaltire queste cose bisogna imparare a farle, non è mica una cosa a fare, perché uno pensa che lo smaltimento ammucchia lì un po' di roba, però loro costruivano queste cose, quindi esatto, sono quindi lo perfetti, sanno fare. Dovrebbero essere... facciamo ordine, allora, sì. Facciamo bravo. Un po' di ordine. Il discorso è, prima la raccolta, chiaramente noi dobbiamo fare una filiera e con questa filiera noi riportiamo a materie prime, sì. Quelli che erano i vecchi prodotti, sì. Per ridarli in e lo riportate allo stadio di materie prime, in pratica. Esatto, in materie prime. Plastica, sì, non tutto è reversibile, prime. Immagino, ma comunque... Non tutto è reversibile, non è che qualunque pezzo di telefonino può tornare. Perché si dividono in cinque RAE, sì. E noi vorremmo fare gli R2, gli R4, che sono i grandi bianchi e i piccoli elettrodomestici. I grandi bianchi? Sono cose tecniche che noi non possiamo capire, ma che importano fino a un certo punto. Cosa sono per esempio i grandi bianchi? Queste cose però si possono riciclare, contrariamente a quello che dicevi tu Gabardini, si possono riciclare fino a una percentuale molto alta, prendo una lavatrice posso recuperare fino al 98%, 95%, non mi ricordo, ma ci sono degli standard. Sì, si può fare, perché praticamente noi possiamo fare con la filiera all'incirca, se noi riusciamo a fare la filiera, 220.000 tonnellate annue di materiale elettrico elettronico riciclato. Ma siete in 5? Siamo in 5, però dobbiamo chiaramente con la filiera si può lavorare. Però io non ho capito una cosa, forse mi sono distratto io, ma adesso siete in 5, avete lo spazio, le attrezzature, i contratti, le cose per poter lavorare, o siete ancora diciamo in una fase in cui magari siamo possiamo fare progettualità. Quindi possiamo aiutarvi a fare un appello affinché magari qualcuno che è più avanti a voi in questo lavoro vi può venire a fare una consulenza gratuita, che certo, ne so. Certo, questo potrebbe essere. Andare a fare dei corsi di formazione ben precisi. Così non rimanete lì con le mani in mano. Io vi faccio l'in bocca al lupo, vi facciamo tutti noi qua di Radio 24. Sì. Perché... Aspetta, io volevo, sì. Però volevo chiaramente fare dei saluti a... All'onorevole Bianchi. Vabbè, questo l'ha già detto l'onorevole Bianchi, adesso non facciamo troppo. I grandi bianchi. Il presidente della Lega Coop, Daniele del Monaco. Sì, se no sembra che stiamo facendo uno spot a questa gente qua, ma non ci interessa per niente. No, anche noi ci uniamo ai ringraziamenti, perché chi vi ha dato una mano a uscire da questa situazione, ripeto, siete solo 5 su 1200, sarebbe bello che foste di più, evidentemente c'è ancora un po' di timore, perché non è chiaro tutto quello che andrete a fare, che cosa vi porterà, ma siete in mobilità intanto? Avete... Sì, siamo in mobilità. È questo il punto, probabilmente c'è ancora un po' di stipendio, qualcosa che dà la sensazione forse illusoria a qualcuno, a molti anzi, di dire vediamo come va a finire, poi magari arriva un salvataggio, l'azienda riparte, ci riprendono da qualche altro posto. Voi invece prima di aspettare... Io volevo fare solo una cosa, no? Sì. Il nostro è un esempio, perché tante persone che stanno in mobilità nella nostra zona potrebbero fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi, mettersi insieme. Fare delle cooperative, rimetterci da benissimo Marco, noi l'abbiamo fatto l'appello e anzi lo rinnoviamo, lo rilanciamo, grazie ancora all'iniziativa Videocoop. Questo era Marco Aversa, uno degli ex dipendenti della Videocon, che ci sta provando. In bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo. Grazie, grazie a voi che mi avete chiamato a Radio 24. Buona grazie. Domenica. Pensavo grazie all'onorevole Bianchi ancora, signora, basta, sennò veramente... Ma chi è questa Bianchi, tra l'altro? I grandi Bianchi, vabbè. Ma no, non forse non l'abbiamo capito, forse ha detto grandi impianti, forse non l'ho capito io, chiedo scusa. No, era Bianchi, era le lavatrici, quelle cose là. La mattina è molto perché difficile. Non ci capiamo nulla su questo, però è interessante, capito? Il futuro è sicuramente questo, il recupero, e loro ci stanno provando. Alberto da Bergamo, 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, prego. Ho telefonato per la definizione. Sì. Allora, secondo me la stupidità è la rinuncia a mettere in gioco la propria intelligenza. Ok, va bene Alberto. Tutto qui. Grazie. Grazie mille. Partecipa lei anche al concorso. Sentiamo anche Angela da Como. Pronto? Sì, prego, Angela. Allora, secondo me la stupidità è l'incapacità di cambiare idea, nonostante la realtà dimostri il nostro errore di valutazione. Va bene Angela, grazie. L'incapacità di cambiare idea. Vogliamo sentire anche un altro ascoltatore, Stefano da Mestre, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Allora, questo per me è un tema molto cruciale che può riguardare un po' tutto il nostro paese, anche diciamo le nuove generazioni, soprattutto i ragazzi che crescono. E la stupidità è un grave problema, e non la definirei come livello patologico, ma più un atteggiamento che secondo me è dovuto alla pigrizia, essenzialmente la mancanza di coraggio. Questi due aspetti condizionano anche persone che... Ma ci deve dare una definizione però. Sì, sì, la definizione è questa. Per me, allora, la definizione è che è l'alibi delle persone, chiamiamo, poco coraggiose e pigre. Perfetto. Va bene Stefano, grazie. Sentiamo anche Giovanna, ripeto che ci state dando la definizione di stupidità, perché si vincono i tre ascoltatori che a giudizio insindacabile della redazione, cioè nostro, danno la definizione più giusta, più bella, vincono ognuno due biglietti per la mostra Brain, che è a Milano dal 18 ottobre al 13 aprile del 2014. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, ma mi sa che me l'hanno già fatta questa, sì. Io... diciamo la dico, però mi sa che qualcuno, sì, deve averla già fatta, ma è una cosa nella quale noi crediamo molto. Ma qualcuno in famiglia? È qualcuno in famiglia che ha chiamato prima di lei? No, qualche altra persona che ha chiamato. No, in famiglia questa l'ha detta mio marito, prima gli è venuta spontanea e ho chiamato. Allora, stupido è chi non cambia mai idea. L'ha detto poco fa Angela da Como, infatti, in effetti, sì. Mi spiace. Vabbè, possiamo però... anche fare in caso dovesse essere, certo, scelta l'esercizio, un ex aequo, va bene, non c'è problema Giovanna, grazie. Perché è perfetta, sì, secondo va bene, me. Va bene. Ma l'aveva detta prima di sentirla in radio, vero? Certo. Ah, certo, ecco. Sì, sì, sì. No, perché magari suo marito l'aveva sentita e l'ha detta. No, anzi, siamo sicuri. Detta proprio mentre parlava quel signore dell'elettrodomestico. Perfetto, ci fidiamo, sì, signora, ciecamente. Sì. Bravi, no, grazie. Ciao. Perché, grazie. È che lei ha detto, magari qualcuno l'ha già detta, perché siccome sente da un po' la radio, sa che sono già arrivate diverse telefonate, cioè magari qualcuno, certo, l'ha già detto, certo, non che l'avendolo sentito. Dici? Io penso di sì. Secondo me proprio sentito, dici, porca, ce l'avevo qua sulla punta della lingua, la sapevo, però l'ha già detta qualcun altro. Oppure ricopio la definizione già data e punta, esatto, le sue fiche su quella, senza sapere se vincerà, e lo sapremo tra... Cosa non si fa per andare a vedere la mostra Brain. Esatto, tra pochissimo. Abbiamo già il traffico, sì, ce l'abbiamo, 800 24 00 24, tra poco l'ultimo pezzettino di programma, ancora qualche intervento in diretta, però dopo il traffico. si può fare. Cronache da un paese migliore. The best, perché siamo alla ricerca del migliore, anzi della migliore. Certo, la migliore definizione? No, la migliore definizione, sì, questa è il concorso, Bren, no, la migliore città italiana, giusto. Candidata, cosa, vediamo se si è preparato, capitale? Della cultura, cultura europea. Dovete sapere, certo, cari ascoltatori, che è da qualche settimana che ci stiamo dietro, ma insomma la notizia è che nel 2019, cioè noi ci stiamo organizzando per tempo, la capitale europea della cultura sarà l'Italia, questo si sa. C'è una lista di città che si sono candidate, adesso a un comitato ristretto di definire una shortlist. In attesa di questo, noi stiamo conoscendo, riscoprendo queste città, cercando di capire perché si sono fatte avanti queste città medio-piccole italiane. Abbiamo fatto Palermo, abbiamo fatto Bergamo, abbiamo fatto Ravenna, abbiamo fatto Pesaro, sì signori, Perugia e Assisi, le ripeto tutte perché sì, par condicio. Perugia e Assisi assieme. Assieme. Oggi scopriamo Aosta e salutiamo con grande piacere il sindaco della città, Bruno Giordano. Buongiorno a voi, agli ascoltatori, e grazie per il vostro gentile invito. Buongiorno. Grazie a lei, grazie di avere partecipato. Oh, allora, prima di tutto, cosa vi aspettate da questa candidatura? Perché si sa che quando ci si candida a questi grandi eventi c'è sempre la questione quanto si spende per fare pubblicità, per farsi conoscere, per progettare tutto, e quanto poi si incassa veramente. È un affare partecipare a queste iniziative, sindaco? Intanto per noi, chiedo scusa, che siamo una regione di confine, è un'opportunità. Questa domanda mi permette di fare una precisazione importante. Come voi sapete, ogni città candidata deve indicare nel dossier che deposita al Ministero anche sì, gli aspetti finanziari. Quindi io tengo subito a dire che noi non chiediamo allo Stato nessun finanziamento per questa candidatura. Okay. Noi abbiamo già in corso di trasformazione importanti, un nuovo e moderno polo universitario, un parco archeologico dedicato a reperti di valenza mondiale sulla sì, preistoria europea, oltre a monumenti romani che sono già stati valorizzati, e alla riqualificazione delle nostre piazze. Sì, perché, per non so, Aosta... perché non so quanti lo sanno, se lo ricorderanno, lo hanno studiato, ci sono stati, a Aosta ci sono i resti romani importanti. Certo. Come si usa dire, Aosta è la seconda città italiana per importanza di reperti romani dopo la capitale, quindi dopo Roma. E quindi, dicevo, per noi Aosta 2019 non è un libro dei sogni. Mm-hmm. Vorremmo poter coronare, valorizzando in una dimensione europea, sì, un percorso che noi abbiamo già imboccato e che comunque sarà destinato a trovare un completamento. Senta, come funziona adesso il meccanismo della candidatura? Quando si saprà la shortlist nella quale potreste essere dentro o fuori? Non ce l'hanno ancora ufficialmente sì, comunicata, in cui avverrà questo meccanismo della preselezione. Credo che sarà intorno a fine mese novembre, i primi di dicembre. Ah, manca pochissimo quindi. Sì, per il discorso della preselezione ci siamo quasi. Certo. Ecco, tra l'altro voi fate parte anche di un progetto europeo per l'efficienza energetica, Alp Store, è così? Sì, esattamente, ma noi siamo naturalmente europei. Che è un tema, insomma, perché... questo delle energie, che sappiamo è molto di attualità, è molto importante. Assolutamente, poi la nostra è una regione ricca di acqua e quindi, insomma, in un qualche modo noi produciamo molta energia, come si suol dire, pulita. Però ritornando al tema che poi ci interessa, che è quella della capitale europea, della cultura, vorrei sottolineare che non è solo Aosta che si candida, Aosta si candida come città capoluogo, però sì, questo progetto include l'intera regione autonoma della Valle d'Aosta. Ah, infatti, perché sento che cita sempre tutta la regione in realtà, ma quindi voi vi candidate come regione? Beh, è una città-regione, insomma, Aosta è, da questo certo punto di vista è sicuramente... Noi chiaramente abbiamo il sostegno di tutti e 74 i comuni della regione autonoma della Valle d'Aosta, anche perché è impossibile svincolare l'Aosta romana dai castelli medievali come quello di Fenissi, Sogno, dal Forte di Bar, dalla cultura delle popolazioni valser della Valle d'Allis. Cioè noi cerchiamo di mettere in campo quello che in gergo tecnico viene chiamato il brand Valle d'Aosta, questo ecco, è quello che vogliamo promuovere. Brand è molto bella questa cosa che però dice giustamente come si può staccare da un comune o dall'altro comune, perché se lo dice diciamo al comune di Pisa non credo che quelli di Livorno dicono ma certo che noi appoggiamo la candidatura di quelli di Pisa, come si fa a staccare? Beh, è molto onorevole. Lì sono due galli in un pollaio, qua invece la Valle d'Aosta è ruota certo attorno alla città di Aosta che sicuramente è capofila, però sindaco il momento proprio diciamo in che in 30 secondi lei dovesse fare un po' lo spot, cioè non tanto lo spot quanto sintetizzare proprio il messaggio fondamentale a un cittadino, che ne so, di Berlino, di Barcellona, di Dublino, perché potrebbe essere o sarà Aosta la capitale europea della cultura. Ma in 30 secondi mi limito a dire che in ogni passo del cammino di Aosta, ormai è un cammino ultra bimillenario, ritorna al tema dell'Europa, radici europee nell'impero romano, in quelle cristiane nel Medioevo. Siamo un luogo di confine con un'antica cultura di mediazione, di scambi, di integrazione. Siamo una splendida realtà di montagna. Vorrei ricordare che Aosta e la sua valle posseggono gli unici monti che vanno oltre i 4.000 metri. Sono quattro monti che sono più alti di 4.000 metri. Questo è già un bel motivo, anche se non ha a che fare direttamente con un'idea di cultura, ma in senso lato sì. Abbiamo puntato, sì, ma non c'è cultura se non c'è la cura del paesaggio. Certo, questo poi, certo, dicendolo a lei sapevo che avrei... Guardi, il nostro slogan è Aosta è l'Europa al centro, perché non esiste altro futuro possibile. Se posso chiudere, mutuo con il nome della vostra trasmissione, si può fare. Ecco, noi ci benissimo crediamo. In bocca al lupo allora al sindaco di Aosta per questa candidatura, grazie. In bocca al lupo. Grazie a voi. Intanto buona c'è un sms bellissimo che dice: stupidità è ascoltare, si può fare per più di 5 minuti. Questo non è male, anche se è un po' contro di noi, però cioè, in generale non è male. Vabbè, ci abbiamo ancora tempo per sentire Domenico da Milano. Buongiorno. Buongiorno, sono Domenica. Domenica, sì, avevo letto male. Domenica, prego. Sì, volevo dire questo, che la persona stupida è una persona che capisce poco di se stessa e meno degli altri. Va bene, poco di se stessa e meno degli altri. Grazie Domenica. Grazie. Sentiamo ancora Guido da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, la mia definizione sì è che stupido è chi pensa, si illude di poter essere felice a dispetto di qualcun altro e non essere felice perché rende felice qualcun altro. Bella. Va bene Guido, anche questa è bella. Allora, grazie intanto agli ascoltatori, ce ne sono alcune linee, non facciamo in tempo a sentirli purtroppo perché siamo in chiusura, dobbiamo anche tirare le fila, ognuno qua in redazione ha espresso i suoi voti, stiamo tirando fuori dall'urna, no, in realtà stiamo facendo, allora lo dico subito, allora hanno vinto due biglietti ciascuno per la mostra Brain, Sari da Varese che diceva coltivare con arroganza ciò che ci fa vegetare, cioè bisogna essere vivi, attivi nella vita, Ambrogio da Milano che diceva possedere l'intelligenza e non usarla. Angela da Como in ex aequo però con Giovanna da Monza che dicevano essere stupidi è l'incapacità di cambiare idea, e questi sono quelli che hanno vinto, vi contatteremo per avere i biglietti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Scena e redazione grandissima come al solito, Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, Alessio Maurizi, Carlo Gabardini, ci risentiamo sabato prossimo. Assolutamente sì. Carmelo Lauricella in regia, ci sentiamo sabato prossimo, buona giornata. Ciao, buona ciao domenica. Buongiorno, sono Rocco, chiamo da Roma. Consiglierei al nostro governo di gemellarsi con l'amministrazione giapponese delle città più importanti, in quanto lì un singolo cittadino può segnalare la targa di una macchina che scarica spazzatura per strada o addirittura chi butta una cicca della sigaretta dal finestrino. Esistono volontari che raccolgono quella poca spazzatura che può esserci per le strade, quindi per accelerare i tempi bisognerebbe imitare questo popolo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi ha presentato Si può fare. Cronache da un paese migliore.